Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Guardaci qui alle 9:08 minuti, cara Veronica, buongiorno. Buongiorno, mio bel ragazzo. Sono tornati i funamboli, io devo subito fare un mea culpa perché saluto tutti e ho questa cosa che... questa idiosincrasia, non saluto mai Valerio Rocchetti, che è lì il regista. Allora lo saluto prima di tutti oggi, il regista lì a Roma. Ma guarda come sei carino e buono, però... No. Apprezza, vedo dei segnali dall'altro lato del vetro per cui mi dice che apprezza profondamente. Apprezza, ma è lui che fa la regia lì. Ha molta simpatia per te. Evito di dirti la gaffa che hai fatto, dai, vai avanti, vai. No, perché non è lui, Alessandro Chiappini. Mamma mia, ragazzi. Però mi ha guardato come a dire. Saluto Alessandro Chiappini, un grande, grandissimo in regia. La faccia di Alessandro era: non ti accanire su quel disgraziato, fai finta che io sia Valerio, capisci? Ormai ci muoviamo così con perché te. Perché questa è una trasmissione in cui abbiamo due registi, pensa. Oggi abbiamo Paolo Corleoni, non c'è Peter Bescapè, abbiamo la redazione, quindi salutiamo il grande Paolo qui in regia a Milano e tutti i nostri redattori, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, c'è il funambolo Leonardo Manera che s'aggira, guarda che è una roba. Già? Già, sì. Già? Oggi quindi ha cominciato ad alzarsi di mattina presto? Prestissimo. Questo è un segno pessimo perché vuol dire che non dorme la notte, vedrai come sarà oggi. Cara Veronica, come al solito abbiamo un'Italia ricca di funamboli e tra l'altro parleremo di varie cose. Sai che dopo le 10 soprattutto parleremo, senti un po', di questo. Sono Pietro Maso, ho scelto di parlare dopo 26 anni, racconterò tutta la mia vita fino ad oggi. Con tutte le maschere, con tutte le corazze che ho portato per vivere. Per affrontare un'intervista così ci vuole molta forza, molto coraggio. Oggi Maurizio Costanzo intervista Pietro Maso, un nome che tutti ricordano, colui che uccise i genitori per l'eredità insieme a un paio di amici nel 91. E tu che ne pensi, mio caro? Io penso che sicuramente è un'intervista scioccante, è un'intervista molto forte. Mi faccio e rifaccio sempre al mio maestro radiofonico Giancarlo Santalmassi, che mi disse: si può in radio come in TV fare e intervistare, parlare di tutto, dipende sempre da come uno affronta le cose. E quindi dico che si può. Perché io no? Invece dico che non si può, pensa un po' tu, ma noi andiamo sempre molto d'accordo. Ma non dico che non si possa in assoluto, dico che a meno che non ci sia uno scopo molto preciso per cui si decide di dar voce a qualcuno che ha commesso qualcosa di estremamente grave, penso che non ci sia la necessità di andare a tirare fuori delle persone che hanno avuto dei trascorsi così violenti, così cruenti, sì. Con l'unica finalità di avere mezzo punto in più di share, perché di questo si parla. Questo senza in TV, fare in TV è la regola, come dire. Sì, sì, per share. Carità, però tu su tutto è la regola, anche sul mercificare se stessi, la propria vita, e beh, compromettersi su tutto. Però poi si può scegliere quali sono i confini. Certo, si allora può tu scegliere. Mi puoi obiettare che in questo caso non è servizio pubblico, a differenza dell'intervista che fece Vespa al figlio di Rina. Anche quella ha fatto che un libro. Che fu un altro tema controverso. Ecco, anche lì, no, lì poi la situazione a mio avviso è molto molto più grave. Però in questo caso io ritengo Maso non è certo un redento. Poi se ce lo vogliamo raccontare ce lo raccontiamo. Cioè, ha fatto il carcere. Questa solfa non me la vendi. Ma no, ma è vero, ha scontato la pena. È un uomo totalmente libero. Totalmente libero, che gode dei nostri stessi diritti tali e quali come persona privata. Il personaggio pubblico è un'altra storia. Per cui decidere e non mi venire a raccontare che l'anno scorso ha fatto una copertina su chi a petto nudo, messo come un tronista problema, di uomini e donne con i catenacci. Il problema è chi gli offre questa cosa, nel senso, no, lui il è problema è anche che allora non venite a raccontarmi la favola romantica di Pietro Maso che si è pentito con dietro le foto dei genitori, la lacrimuccia che scende, io sono un uomo diverso, perché se esco da 20 anni di carcere con pronto ad estorcere soldi alle sorelle, storia per la quale è ancora sotto processo, e spero che Maurizio Costanzo glielo chieda e gli dica perché hai fatto fatto questo perché no, cioè non è una, non penso che sia la santificazione di Pietro Maso intervistarlo, no? Noi lo vedremo stasera e poi la settimana prossima rifacciamo un altro colpo di fioretto, praticamente diventiamo i biografi del post carcere di Pietro Maso. Però ecco, vedi, già subito tanti moralisti come te scrivono: ha ragione Veronica Gentili, non si può, ma non si può dar voce a Pietro Maso. Diteci cosa ne pensate, perché poi ne parleremo, eh? Perché tu devi essere sempre libertino e liberista a tutti i costi. Va bene, c'è anche un Gentili ti amo, non ho capito cosa voglia dire. Ah, ecco, interessante. Io nemmeno ho capito cosa voglia dire, ma mi piace. Ma che ti frega? È bello, è bello. L'amore è bello. L'amore, come direbbe il Cavaliere, vince sempre sull'invidia e sull'odio. 800 24 00 24. Chiamateci oppure scriveteci al 349 238 6666. Che ne pensate? Non mi interessa capire se la vedrete o no. Io non la vedrò, per esempio, dormirò a quell'ora. Però voglio capire. Non ci far venire la tristezza così, però abbi pazienza. Voglio capire cosa ne pensate del dare voce a Pietro Maso. Sì, uno che ha ammazzato i genitori, lo sappiamo benissimo, sappiamo cosa ha fatto, è forse uno dei crimini più efferati della storia del crimine italiano, e oggi parlerà per la prima volta. Vabbè, ma non partiamo da qui, Veronica, partiamo da altro. Perché noi vogliamo sempre confonderli. Stupirli. Alle 9:14 minuti, noi l'Italia dei funamboli la vogliamo raccontare ospitando oggi due persone che lavorano, una meglio dire lavorava perché è in pensione da poco, e una è ancora un capotreno, quindi lavorano sui treni. Guarda che, Veronica, ci ascoltano tantissimo dai treni, soprattutto però treni affollati, pendolari al mattino, no? Quando vanno a lavorare. Certo. In questo caso, purtroppo, i treni a una certa ora in Italia, soprattutto i treni regionali, eccetera, diventano anche delle lande deserte in cui succedono delle cose molto, molto spiacevoli. Spesso sono in balia di balordi, delinquenti, disgraziati. A leggere gli articoli di questi giorni sembra di parlare di una specie di Far West con le ruote, cioè che... di sera purtroppo un po' è così, e chi ci lavora spesso viene aggredito. Noi abbiamo un capotreno di media lunga percorrenza di base a Firenze, Tommaso Lanni, che salutiamo, buongiorno e grazie di essere con noi. Sì, buongiorno. Così come abbiamo Loris Perin, che invece è in pensione da poco. Buongiorno Perin. Buongiorno. Che nel 2008, se non sbaglio, subì un'aggressione molto dura, un'aggressione calci e pugni per diversi minuti. Tra l'altro, sì, nel 2008. Nel 2008, il 21 novembre. Tra l'altro, lei ha raccontato varie volte nell'indifferenza generale delle poche o tante persone che c'erano, è così? È questo che è la più ferita, più che oltre che le botte? Sì, beh, il danno fisico, diciamo che grazie comunque alla mia ex atleta, io sono un ex atleta, per cui bene o male non ho avuto tante rotture, ne ho avute solo tre, però mi è andata bene a livello solo fisico. Solo tre? Sì, perché si può sempre ricostruire un osso, quindi non è quello il problema. Il problema è a livello psicologico, perché a livello psicologico c'è stata l'indifferenza totale delle persone che assistevano al mio pestaggio. Io ho letto che questa cosa l'ha colpita molto, che lei parlava addirittura di razzismo al contrario, cioè che nessuna delle persone che erano lì ha fatto... Sì. Ha fatto niente, certo. Perché l'aggressione, diciamolo, credo fossero tre nordafricani che l'hanno colpita, ma lei erano tre tunisini. Se mi intrometto, sì. Perché sì. Sì, no, sì. Erano tre tunisini, mi hanno detto, cioè io ho litigato tra virgolette con questi tre tunisini, poi mi è stato riferito che sono stati loro, da un collega in stazione, quindi ha visto lui, però lui, come tutti logicamente, diciamo che si sono voluti tutelare, però almeno un colpo di telefono alle forze dell'ordine. Sì, che sa, però le forze dell'ordine arrivano quando il danno purtroppo è già fatto, nel senso che più di almeno 10 minuti uno deve concedere alle forze dell'ordine, no, per intervenire. Certamente, però almeno la telefonata, almeno far vedere che ti sei interessato della persona. Invece... su quel treno erano su una trentina di persone, tutte giovani, si sono trincerati nel dire avevamo paura, ma la telefonata non fa paura. No, lei diceva addirittura che qualcuno riprendeva con i telefoni, cioè che c'è anche proprio come se la violenza a chi che non è su se stessi non interessasse minimamente. Allora, questo, quello che era a me era all'inizio, non era, diciamo che era, la punta dell'iceberg che ha incominciato a montare questa situazione. Quella di adesso è che filmano mio collega della Brescia, Cremona, è stato filmato mentre veniva picchiato. Quando uno ha paura non va a filmare due persone o una persona che viene picchiata, ma scappa. Certo. Invece ha filmato, cioè, è rimasto lì, quasi attratto addirittura da questa violenza. Attratto da questa violenza, perché io dico, perché questo? Perché nell'indifferenza totale, perché fosse capitato a un suo congiunto, o sarebbe scappato o l'avrebbe aiutato, ma tutti siamo, dal mio punto di vista, congiunti. Perché se io vedo un estraneo, uno che picchia un altro, o se c'è la possibilità cerco di intervenire, qualcuno mi dice ma ti prenderai una coltellata, ma io sono fatto così. È chiaro, questa esperienza l'ha molto segnato. Vogliamo capire anche da Tommaso Lanni, che invece è oggi anche quotidianamente sui treni, se la situazione sia da confermare quella che ci ha detto Loris Perin. Tommaso Lanni dice: attenzione, perché i pericoli arrivano soprattutto dalle bande di ragazzini. È vero, anche lei, Tommaso Lanni, ha subito un'aggressione? Senta, sì, io ho subito due aggressioni nel corso della mia, diciamo, carriera ferroviaria. Ho detto le parole perché ritengo che uno dei problemi che ci siano maggiormente oggi è una questione di educazione. Cioè, perché spesso si va a cercare di dare una risposta alle aggressioni di pancia, e questo allora si dà la colpa all'immigrato. Credo che così non è, e credo che dobbiamo fare una disamina più attenta per capire veramente quali sono le realtà che poi portano a questo fenomeno che, come ha detto e avete detto bene voi prima, è molto in espansione, tra l'altro sta investendo non solo più i dipendenti del gruppo FS, ma anche direttamente gli utenti. Sì, gli utenti, certo, i passeggeri. Faccio un inciso, si tratta di 1721 casi di violenza dal 2014, cioè tantissimi. Ma negli ultimi tempi c'è un doppio fenomeno, che poi si può evidenziare già dal fatto di Prato, perché l'aggressione di Prato a una ragazza fatta da due ragazze italiane, secondo me deve invitare a riflettere, perché non è una questione che noi ci laviamo, come dire, la coscienza dicendo è colpa dell'immigrato perché così è più semplice. Credo che ci sia un problema molto importante di educazione alla legalità. Credo, ed ho proposto alle istituzioni, perché credo che qui gli attori sulla sicurezza è l'azienda, la nostra azienda, quindi gruppo FS, ma sicuramente ci sono lo Stato, le regioni e il prefetto. Sì, tra l'altro ci scrive per esempio Tonio che la regione Lombardia, su una tratta, lui dice faccio la Treviglio, adesso mi sono perso il messaggio, Treviglio-Bergamo, dice la regione ha messo delle guardie armate, giurate armate, a servizio dei treni per chiedere il biglietto, perché nasce in genere da lì, dalla banale, richiesta del biglietto che uno non ha e diventa un'aggressione. Sì, inizia la violenza. Su questo vi posso dire che io non sono molto d'accordo sulle guardie giurate, e vi spiego il perché. Perché il capotreno e anche la guardia giurata non ha, cioè noi sul treno, faccio per chiarire anche per chi sente e non è ben informato, siamo pubblici ufficiali, quindi abbiamo tutte le sì, però capisce che se uno vede una guardia giurata, magari e non ce l'ha nemmeno la guardia giurata, perché non è che poi sì, certo, può essere un deterrente, però un pochino, guardi, sì, forse vi invito a riflettere sui dati. Allora, i dati dicono ufficiali, Ministero dell'Interno, dicono che nel 2014 al personale di bordo, diciamo, c'erano 316 aggressioni. Nel 2015 le aggressioni salgono a 564, quindi c'è un escalation. È un trend che doppio. Sale, sì. Esattamente, e vi spiego il motivo. Il 18 novembre del 2014 il Ministero degli Interni fa un progetto di nazionalizzazione risorse dei presidi, in cui fa una drastica cura dimagrante, passando, dismettendo 51 sedi della polizia ferroviaria. Da allora, per capire il fenomeno, secondo me noi dobbiamo, perché per risolvere bisogna capire, sì. Se non partiamo, no, no, ma è chiaro, ma Lanni, la desertificazione delle stazioni, che, sì, che vuol dire chiusura di posti polvere, sempre meno dipendenti delle ferrovie, quindi votamento. porta un presidio, no, si fermi un attimo, perché altrimenti tra l'altro il cellulare un pochino va via, cara Veronica. No, e sento, pensavo, leggevo che loro hanno fatto anche delle proposte al Ministero dell'Interno ultimamente, come quello di aumentare la videosorveglianza, mettere un secondo tornello di sicurezza nelle stazioni più grandi, perché il problema molto spesso, come tutte le cose, si verifica nelle zone periferiche e quindi quelle appunto in cui c'è frequentate peggio. Sì, di base, però io non vorrei fare il brontolone vecchio, ma no, che c'è, non che lo c'è fai un mai. No, che c'è un mondo veramente che è peggiorato in una maniera. Ma perché uno non deve pagare il biglietto e pestare pure un capotreno, un conduttore, uno che ti chiede il biglietto? È questa la cosa sconvolgente, perché uno non paga il biglietto e allora parliamo, dici, defurbizziamo le cose. Va bene, uno non paga il biglietto, io non hai, cioè ci sarà anche quello che non paga il biglietto, che vuol fare il furbo, che non hai, c'è anche quello che non ha i soldi, c'è anche quello che prende. Ma perché uno, è questo Loris Perin, cioè Loris Perin che è in pensione, sono brontolone a dire che il mondo è peggiorato e 20 anni fa non succedevano, no, queste cose, e no, ora ma sì? queste cose cioè, il discorso del biglietto, quello senza soldi di qua di là, ci stava anche allora. Il discorso è che adesso si è arrivati al pestaggio, ma la cosa che più mi dà fastidio, mi ferisce, è tra virgolette le istituzioni parlano. Purtroppo ha ragione il collega, lo chiamo ancora collega. Pronto? Sì, sì, certo. Sì, eccoci. Ha ragione ancora il collega che sono state ridotte le forze di polizia di qua di là. Però le ripeto, su Rete 3 Nord, Ferrovie Nord, cioè viaggiano, si ha la convenzione che viaggiano gratis, tra virgolette, carabinieri, vigili del fuoco, chiunque. Quindi anche quelli sono pubblici ufficiali. Sì. Quelli si presentano in testa al capotreno e loro due possono andare. Quindi volendo guardare, Non occorrerebbero neanche le guardie. Che per esempio ci ha chiamato, ci chiama un ascoltatore, Paolo da Venezia, che mi segnalano far parte della Guardia di Finanza. Sì, Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Che ci vuole dire? Che io per lavoro viaggio regolarmente su una tratta abbastanza lunga, sono un centinaio di chilometri fra Venezia e Trieste. E regionalmente c'è una convenzione con la polizia giudiziaria, con le forze dell'ordine, per la quale si può viaggiare senza pagare abbonamento. Sì, come biglietto, ci diceva adesso il capotreno. Esattamente, fornendo però obbligatoriamente assistenza in caso di richiesta parte del personale viaggiante. Sì, però Veronica, siamo a questo, cioè dobbiamo militarizzare i convogli, perché non si può andare sul treno. Bisogna... Però se ci pensi, Alessandro, ricollegandoci alla puntata di qualche giorno fa delle dottoresse negli ambulatori, no, che la notte hanno paura se non c'è della sorveglianza e delle... Purtroppo sì, sembra che sia necessario che ci sia qualcuno che fisicamente faccia da deterrente. Sembra assurdo, eppure pare essere così. Va bene, noi intanto vi ringraziamo, ma se volete chiamarci, cari pendolari, c'è anche un macchinista di Freccia Rossa che dice di salutarlo. Adesso però si firma Tommaso e Michele, non lo so, sono in due forse, che dice che è sempre... Sono in tanti lì dentro. Non lo so, è sempre lì con le cuffiette che non ci perde mai, e quindi vi salutiamo. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano sui treni e sono tantissimi. Ringraziamo Tommaso Lanni e Loris Perin che ci hanno dato uno spaccato, funambolico, ecco. Devo dire, cara Veronica, mi stanno massacrando. Qui è veramente funambolico. Che ti dicono? Mi dispiace. Niente, ma cosa vuoi che dicano? C'era un unico messaggio che volevo leggere, che era Milan a letto. Questo Milan mi piaceva letto. E oltretutto non so se voleva stasera essere un insulto, ma forse era un auspicio invece, no? Perché rimanere a dormire stamattina poteva essere... ma si riferiva a stasera forse, che non vedrò la... Comunque, no, non credo che sulla questione di Pietro Maso mi stanno massacrando, ha ragione Veronica, basta, che valore aggiunto dall'informazione. Ma io dico, ma allora il mio mito, Franca Leosini, che va nelle carceri, intervista, cioè guarda in faccia il male senza giudizio, lo propone agli ascoltatori. Ieri tu mi hai fatto questo esempio anche a me. Non è la stessa cosa, perché il lavoro che fa la Leosini è un tentativo di intervistare, a volte ancora in carcere, persone che ancora stanno scontando la pena, ancora quando c'è il processo, fare una narrazione non in maniera compiacente raccontando la redenzione di un personaggio. Ma che ne sai che sia compiacente Maurizio Costanzo? Magari oggi lo inchioda le sue responsabilità, non lo sappiamo. Intanto atteniamoci a quello che abbiamo visto, non andiamo oltre. Abbiamo visto la presentazione, il trailerino con la foto grande dei genitori dietro e le lacrime che scendono di lui, e dice... Ma lei si pente? Quella è la TV. Quella è la TV. No, non è la TV, perché non so, perché la Leosini non fa questo, proprio perché quella hai citato una persona che a te piace e che fa un tipo di servizio. Leosini è un mito, cosa c'è? Qui è un'altra cosa. E ti risulta che i personaggi che intervista la Leosini, non vorrei ripetermi, siano sulla copertina di Chi a petto nudo con la catena davanti? Vabbè. Mi sembra, se vogliamo dire le cose fuori dai denti, che Maso stia cercando di fare, uscito dal carcere, di monetizzare la sua figura pubblica. Come quelli che sono diventati, vi ricordate, uno che divenne testimonial di Jeans dopo aver ucciso la famiglia... Sì. Ecco, succedono queste cose. Sentiamo che ne pensa Giuseppe da Torino. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Ma io penso che il problema siano proprio i giornalisti. Temo tanto che si continui a parlare dei singoli casi per non affrontare il problema globale. Io credo che un'intervista come quella a Pietro Maso, condotta con gli stilemi che conosciamo del nostro Costanzo. Non va bene, certo. Sarà un'ennesima botta. Ma io dico, cioè, però Giuseppe, risponda lei come rispose un altro ascoltatore: non amo le generalizzazioni. Che vuol dire i giornalisti? Cioè, ci sono i giornalisti che sono un complesso musicale. Non riescono mai a mettersi in discussione. Ma io Alessandro Milan rispondo per me stesso. Se mi metto in discussione come giornalista, sì, però io... allora perché esiste un ordine che dovrebbe stabilire delle regole? Io lo abolirei domani. Allora aboliamo tutto e abbiamo internet. No, io lo abolirei. Dove le informazioni... No, ma lei ha ragione, il nostro Milan è così, deve essere su tutto, la libertà prima di tutto, l'agnosticismo, lui è così. Ma così lo deve prendere com'è, abbia pazienza. No, voglio dire, cito un altro della TV che io non seguo, perché non è che vedo Striscia la Notizia, ma Antonio Ricci fece una straordinaria intervista a dire: cioè, sono finiti i tempi del maestro Manzi, la TV non deve insegnare la morale, la TV deve intrattenere. E come scrive ieri Filippo Facci, non vi piace l'intervista a Pietro Maso, io infatti dormirò, c'è il telecomando, cambiate canale. Sono forme e forme di intrattenimento, questo non è intrattenimento. Non si riesce veramente a fare una distinzione, perché si può raccontare da un punto di vista giuridico. Prima ci accaniamo la pena, le cose in carcere non bisogna riabilitare, devono stare lì e essere puniti. Poi però uno esce dal carcere e deve diventare una star. Anzi, domani facciamo il concerto di Pietro Maso. Cara Gentili, come i migliori successi dei giornalisti. No, come scrive un ascoltatore, esiste il telecomando. Comunque sentiamo Francesco. E io non lo trovo mai a casa, è per quello che sono così. È quello il problema. Hai perso il telecomando. Se per caso resto bloccata su canale 5 stasera, io che faccio? Mi tocca uscire. Confermo quello che scrive Carlo da Latina: la Leosini è sacra. Bravissimo. Vabbè, ma sì, chiaro, stiamo parlando di un'altra infatti cifra. È però... un paragone che non sta né in cielo né in terra. Per esempio, l'intervista di Rina l'abbiamo vista, ma io, la possiamo commentare. Guarda, ti sembrava scomoda, ti sembrava ficcante. No, lì non mi è piaciuto il fatto che si è capito che Rina ha voluto le domande prima, tutte concordate, registrate. No, ma anche il fatto che è stato completamente subordinata la figura di Rina mafioso al papà tenero, affettuoso, che vuole bene, io onore il padre e la madre, ma è finita. È quello che ho detto all'inizio, la premessa che mi disse Giancarlo Santalmassi è sempre dipende dal come si fanno le cose, cioè non amo la censura preventiva, ma certo dipende dal come. Se oggi Maurizio Costanzo dirà: caro Maso, come sta? Quindi, come sono empatico nei suoi confronti, come le voglio bene, lei redento, ecco, quello tu con è un enorme, modo magari. Enorme naifte mi stai dicendo che secondo te invece accadrà, stasera ci sarà questa intervista spietata in cui Maso si ritroverà con le spalle al muro con la foto dei genitori dietro. Sai che non lo so, perché dormirò, quindi non potrò. Io ti sveglio stasera, io ti chiamo proprio così a tamburo battente, mando Manera al citofono. Faccio così. Manera, che ne pensi tu dell'intervistare Pietro Maso? Ma che bello bollito, ma sto costando mi ha fatto Maso. Sono tutte polemiche pretestuose, l'unica cosa che interessa sono gli ascolti, quanto fa di audience, di tutto il resto non gliene può fregare di meno, quanto ha fatto di share, e il resto chi se ne frega, si ragiona così purtroppo nel mondo dei mass media, questa è l'unica cosa che conta. Questo sì. Comunque andiamo in pubblicità, dai, poi riprendiamo da qui, chiamateci 800 24 00 24, ci sono ascoltatori, tra poco racconteremo anche altre storie, ma questa storia di Pietro Maso ce la porteremo un po' avanti. I funamboli. Rimettere in libertà uno che ha ammazzato i genitori, anche se dopo 20 anni, è una cosa pericolosissima. Io oggi, grazie a Pietro Maso, ho scoperto che Maurizio Costanzo è ancora vivo. Pensavo fosse morto. Ma no, lunga vita a Costanzo! Esatto. Ma perché? Ma perché? È vivissimo, lunga vita a Costanzo. A Roma si usa questo detto: quando una persona non la senti nominare da un po' e te la nominano, dici no, ma mi credevo che era morto. No. Ma è così, è un intercalare così. Comunque esiste il telecomando, esiste la pubblicità, esiste dormire. È arrivata un'altra mazzetta di improperi per te nel frattempo? Figurati, non te lo dico, Mila, perché mi hai deluso dopo anni che ti conosco. Credevo che tu fossi una persona per bene, perché dobbiamo rivelare agli ascoltatori che io qui a Roma non ho i WhatsApp. È bene che loro lo sappiano, sì, quindi sì, quando sì, si sperticano magari nel dire che cosa dici, Gentili, io purtroppo non lo posso leggere, leggo soltanto gli sms. Ringraziano per la gran pubblicità, state facendo il gioco di Costanzo, state facendo il gioco di Maso addirittura. Vabbè, ecco, insomma, che dobbiamo fare? Cioè, tra l'altro mi è venuto in mente anche che Maso, tu pensi che sia andato gratis lì? Sì. Questo non lo so, in genere in TV si paga. Perché il ragazzo mi sembra lievemente attaccato al denaro dopo il tentativo di estorsione alle sorelle. Questo non lo sappiamo, non ha fatto un tentativo di estorsione alle sorelle. Sono una che si lancia in interpretazione. No, non lo sappiamo sul pagamento da parte di Costanzo. Diciamo che è una supposizione abbastanza sensata, magari non sarà vero. Può essere, come vengono pagati tutti quelli che vanno in TV a fare delle interviste esclusive. Certo, però se ti consola c'è un messaggio in cui mi chiede... Allora, attenzione, c'è Manera che mi manda una velina, c'è Manera che mi passa una velina, su questa velina c'è scritto da Costanzo si va gratis, così perché Leonardo? Perché normalmente da Costanzo gli ospiti sono sempre storicamente andati gratis, quindi penso che anche Costanzo andrà gratuitamente. Maso. Costanzo. Sì, che... Costanzo. Da se stesso Costanzo andrà, no, Maso andrà gratuitamente, credo. Non lo so, comunque teniamolo lì in sottofondo. Vogliamo però, cara Veronica, salutare un sindaco che ci deve raccontare una storia un po' paradossale, molto funambolica dell'Italia, eh? È il sindaco di Recanati, siamo in provincia di Macerata, Francesco Fiordomo, buongiorno sindaco. Buongiorno, bentrovati. Il Partito Democratico. Allora, caro sindaco, ci deve raccontare la storia di un consigliere comunale che è stato eletto perché ci spiega attraverso un meccanismo un po' complicato, solo che si trova in questo momento in carcere perché è stato trovato con 2,3 tonnellate di droga. Ma è vero? Cioè 2,3 tonnellate di droga? Io vorrei parlarvi di tutt'altra cosa. Di quello che facciamo. Recanati, leopardi! Avremmo cominciato con a Silvia, però sì, purtroppo dobbiamo cominciare con il nostro Andrea Reccia si chiama. Reccia. Purtroppo abbiamo questa situazione incresciosa con il cittadino Andrea Reccia, che è un recanatese d'adozione, che nel 2014 è stato candidato per le elezioni comunali, era il capolista di Forza Italia, non ha avuto un grande consenso, è arrivato terzo nella lista, la consigliere comunale di Forza Italia si è dimessa qualche settimana fa. Cioè la prima, quella che è stata eletta? Quella che era consigliere comunale con noi, questo è il mio secondo mandato, sono stato rieletto nel 2014, si è dimessa per motivi di carattere personale e professionale. Sì. Quello che arrivava dopo, successivamente, non ha accettato. E quindi è subentrato dovuto... il terzo. Quindi è sostanzialmente è un automatismo. Cioè, è doveva... un automatismo nel sì, senso il che problema è che nel frattempo Andrea Reccia è finito in carcere con questa accusa. Perfetto, perfetto. Però non ha una sentenza definitiva di nessun tipo. Non ha una sentenza. In questo momento ci sono gravi indizi nei suoi confronti, quindi è in carcere di massima sicurezza. A quanto pare non collabora neanche con la magistratura. Quindi il Consiglio Comunale si è trovato nella situazione di dover prendere atto, di dover certificare che l'avente diritto è il signor Reccia, non potendo entrare per il meccanismo di legge nel merito della persona. Certo, tutti i consiglieri comunali con un certo imbarazzo hanno dovuto votare questa presa d'atto, cioè, diciamo, ma poi esatto, all'unanimità il Consiglio Comunale ha dovuto certificare che in base al risultato elettorale del 2014 tocca a Recce. Questa è una tocca votazione. Ma perché, sindaco, la grande incognita è: ma se Recce dovesse accettare dal carcere e dire mi sembra una splendida idea, vengo a fare il consigliere comunale, vabbè, che succede? Stupefacente, no? Sindaco, ma il sindaco ruba il lavoro a maniera, però, sì, così, No, sindaco, se dovesse accettare, effettivamente che succede? Si crea un vulnus istituzionale mica male? No, no, la procedura di legge è molto precisa, noi l'abbiamo verificata con la prefettura, con il ministero. Intanto il consiglio comunale all'unanimità ha preso atto che tocca a Recce, quindi è un voto trasversale, anche il consigliere di 5 Stelle ha votato a favore e non sarebbe potuto avvenire il contrario. Qualora Recce non rinunciasse alla possibilità di diventare consigliere comunale, il prefetto ci ha già scritto formalmente che avverrà la sospensione in base alla legge Severino, ovvero diciamo che quindi si risolve in qualche modo. Si risolve, ma si può risolvere soltanto non preventivamente, ma nel momento in cui ufficialmente viene ad entrare in carica, cioè ad essere consigliere comunale. Il prefetto interverrà con una sospensione per 18 mesi in attesa del processo e quindi della sentenza. Ricordiamo, tra l'altro, accusato di aver incontrato persone con scambio di 113 pacchi di marijuana, 2 tonnellate di droga. Quindi ma, un qualcosa ma poi il quesito è: avendo già un lavoro così, no, anche impegnativo, perché si è candidato il consigliere comunale? Ma guarda, io dai, quando fai la brava. Si candidò nel 2014, perché chiaramente eravamo 7 candidati sindaco, 17 liste, oltre 300 candidati in lista per una realtà di 22.000 abitanti, diciamo un'esposizione di cittadini che volevano partecipare molto importante. E quando sono andato a sbirciare le liste del mio competitor, chiaramente ho letto questo nome Recce e per me era un nome sconosciuto, tant'è vero che presi delle informazioni per capire chi fosse questo geometra. La lista di Forza Italia, diciamo, dal punto, perché il capolista di solito è una figura rappresentativa, però Forza Italia stava vivendo un periodo molto difficile, tutta la situazione era gestita dal consigliere regionale Marangoni, che era uscito dalla Lega Nord, aveva fondato una lista civica e poi era entrato in Forza Italia, quindi posso dire che c'era parecchia confusione in Forza Italia. Io ero contento di questo, perché essendo Forza Italia un partito alternativo alla mia coalizione, però ecco, di questo Recce... Ma se è stupido, non aveva sentito parlare di questo. Ma neanche Recce, che si fosse impegnato in politica, vabbè, perché gli esponenti di Forza Italia negli anni erano altri, però c'era stato questo cambiamento negli ultimi mesi con il consigliere regionale Marangoni che gestiva tutta la situazione. Vabbè, sindaco, insomma, comunque si risolverà, questa è la cosa che abbiamo... Sì, si risolverà. Vuole recitarci a Silvia comunque, a questo no, punto, ecco, sabato dicevo, del villaggio? No, facciamo il passero solitario, che è la mia poesia preferita. No, questa, scherziamo. Le sa tutte a memoria, sindaco, sì? Beh, tutte a memoria... Ma esatto, no, il sindaco, curiosità finale, il sindaco di Recanati deve sapere a memoria le poesie di Leopardi? No, sulla vetta della Torre Antica, passero solitario, cantando là. Sì. Finché non muore il giorno e terra l'armonia per questa valle, tutta. Vabbè, cioè non è però per statuto, cioè così... No, diciamo no, al di là del fatto che poi casualmente mia moglie si chiama Silvia e quindi tutti i sindaci hanno avuto una moglie. Lei non ha scuse. È sindaco di Recanati, la moglie si chiama Silvia, veda un po' lei, e lo Zibaldone a memoria al contrario. La ringraziamo Zibaldone tanto. A memoria o le operette morali sarebbe troppo impegnativo. Però è chiaro che la nostra città ha in Giacomo Leopardi questo ambasciatore straordinario, siamo la città dell'infinito, però possiamo dire, anche per commentare la vicenda, che no, noi siamo per l'estasi della bellezza dei luoghi, no, non quelle artificiali. L'estasi. Sindaco, è stato anche simpaticissimo il trattare questa vicenda, che in realtà è una vicenda, come dire, molto, molto strana, che si è verificata, ripeto, consigliere comunale di fatto eletto, pur stando in carcere con un'accusa gravissima di droga. Ci stiamo dilettando spesso con i funambolismi della legge noi, abbastanza, con questi piccoli così. Era il sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo. Dobbiamo andare al traffico, che poi Leonardo Manera, vediamo se mi passa altre veline qua sul caso Maso. Caso Maso. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta i funamboli. Infatti Milan, hai detto bene, Franca Leosini andava nelle carceri, Pietro Maso, l'unico problema non è che Maurizio Costanzo non lo doveva intervistare, è che lo doveva intervistare in carcere, perché doveva essere ancora in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Vabbè, non... siamo la televisione che ci meritiamo. Due giorni fa, tra l'altro, la TV raccontava al Foglio, sulla Rai hanno mandato lo schermo nero per errore, 10 minuti, e il giorno dopo hanno scoperto che c'è stato un picco di audit, di ascolti. Vabbè, questa è la regola che diede Andy Kaufman in TV negli Stati Uniti. Sì, schermo nero, nero. Sai che Andy Kaufman faceva vedere apposta lo schermo disturbato e tutti rimanevano lì a cercare di capire perché non andava bene. Lui fu il primo che fece queste cose, e ci fu quel film Man on the Moon che proprio raccontava queste cose. E vabbè, cara Veronica, vedi, dai, ti danno tutti ragione. Io mi ritiro in comoda. E quindi ha cambiato il mondo. Cosa succede? La rivoluzione. No, tutti guarda, ragione, ci ha Veronica. Chiamato, ci chiama Gianni da Lucca, che mi dicono che mi la pensa come me. Gianni, ma buongiorno. Secondo me l'hanno cercato loro. Gianni, dove ti hanno, trovato? Dov'eri, Gianni? Buongiorno. Cosa dice Gianni? Buongiorno. Allora, io vi ho seguito, no? Vi ho aperto naturalmente tutti e due. Dicevo, io sto dalla parte di Alessandro. Perché? Grande Gianni, grande. Perché? Gianni. Perché la frase che ti ha rivolto Veronica, che pure apprezzo, nel senso, lui, anche scherzando, lui è sempre troppo per la libertà. Io non penso che ci possa essere troppo per la libertà. Io penso che o si è liberi o non si è liberi. Quindi io naturalmente sarò libero di non vederla l'intervista di Maso, però mi sembra piuttosto Veronica che abbia un approccio un po' moralista, un po' tanto, e una visione dire pedagogica del giornalismo. Io penso che il giornalista va dove c'è la notizia, bravo Gianni, attacca, non è che si deve stare scherzo. A preoccupare che c'ha la scolaresca, che sennò diventa cattiva. Cioè, Gianni, ma quanto ti ha pagato Milan un avvocato? Un avvocato serio? No, dai Gianni, no, ringraziamo, aspetta, diamo spazio a Manera, perché sennò poi dopo, che vuoi dire? Però è vero, Gianni ha fatto una bella difesa. Io sicuramente su alcune cose sono abbastanza integralista, poi lo divento anche magari se vado a bermi un caffè al bar o beviamo una birra, su alcune cose posso anche dire che se ne importa, però finché uno parla a più persone un pochino almeno ci prova, poi a buttarla in cacciare un attimo Va bene, infatti abbiamo Manera qua. Sono venuto a buttarla in cacciare, buongiorno. Buongiorno. Vai, Leonardo. Quello che è certo, cari Veronica e Alessandra, è che viviamo in un periodo con tante paure, no? Mi sembra, perché anche prima il capotreno, tutti stavano lì, riprende... Paura, no? Paura. Basta vedere i titoli di Libero oggi, importiamo malaria, prima pagina, giusto per creare così. E poi, pagina 18, spinaci e taleggio contaminati, c'è da aver paura anche a tavola. Allora io voglio fare una proposta a tutti gli amministratori locali di fare un festival, il festival della o delle paure, perché l'unico modo per esorcizzare la paura e le paure in qualche modo è parlarne, no? E però siccome voglio dare il buon esempio, voglio essere il primo io che confessa le sue paure, quindi dirò quali sono le mie paure. Per esempio, paura che finisca l'acqua calda mentre faccio la doccia e sono già insaponato. Paura di dimenticare dove ho parcheggiato la macchina, perciò spesso dormo in macchina. Paura che mi rubino la macchina, se proprio la volete rubare, avvertitemi prima così mentalmente mi preparo. Paura di perdere il telefonino o lo smartphone senza prima aver fatto il backup sul computer. Paura che il computer si blocchi subito dopo che ho fatto il backup del telefonino, perciò io il backup lo faccio a mano su un quadernino. Paura di prendere la mononucleosi con un bacio. Paura che mentre cerco di baciare una ragazza lei volti la testa dall'altra parte e mi mortifichi. Mi è capitato tantissime volte di cercare di baciare le labbra di una donna e poi ritrovarmi a baciare la mandibola, anche perché lei aveva girato la testa. Sono il più grande baciatore di mandibole. Paura di viaggiare in aereo. Quando mi chiedono se sono credente io rispondo sì, ma solo quando viaggio in aereo, perché appena comincio le turbulenze io comincio a pregare tutte le preghiere che so in tutte le religioni del mondo. Paura dei veri amici che mi dicono la verità. Chi ti ha detto che io voglio sapere la verità? Io non voglio sapere la verità, fatti i fatti tuoi. Paura dei luoghi affollati ai concerti brutti. Paura dei campi magnetici se ho in tasca calamite. Paura di mangiare l'aperitivo o qualche patatina contaminata da virus e batteri di germi di ogni tipo. Quindi paura dell'happy hour, cioè dell'ora felice, come dire che tutte le altre 23 del giorno fanno schifo. Paura dei nitriti che sono dentro ai salumi che poi mi nitriscono nella pancia. Paura di fare l'amore con una donna che ama i gatti e quindi prenderla toxoplasmosi. Paura di rimanere troppo a lungo senza far l'amore. Paura che mentre faccio l'amore la mia donna non senta le campane e si lamenti di me quando io invece ho dato tutto. Paura di abitare in un posto vicino dove ci sono le campane che non mi fanno dormire, quindi paura del campanaro. Paura di andare in un centro massaggi cinese e essere obbligato a fare l'amore anche se voglio solo un massaggio per la lombosciatalgia. Paura quando ho l'influenza di confondere l'aspirina col Viagra e rimanere a casa con la febbre, ma eccitatissimo. Paura di rimanere chiusi in una cella frigorifera con un macellaio che mi scambia per un quarto di bue. Paura di pregare il dio sbagliato e andare all'inferno. Perciò li prego tutti, anche il dio Mitra. Paura della diverticolite. I diverticoli sono delle piccole sacche che ci sono dell'intestino e che possono anche esplodere. Quindi paura di esplodere. Paura di rimanere bloccato sul ponte delle barche di Bereguardo. Paura dai cani piccoli, perché quelli grandi so che possono essere pericolosi e quindi non li frequento. Paura che un salmone mi entri in bocca mentre faccio il bagno nel fiume. Paura che la mia vicina di casa lasci il gas aperto. Paura di avere una vicina di casa 90 centenne che non si ricorda bene quello che fa. Paura di inalare la polvere del gratta e vinci mentre gratto un gratta e vinci. Paura delle lische nel caciucco e soprattutto paura di avere paura. Oh, che bella vita che conduce Leonardo Manera, da quando si sveglia proprio. Però non ho paura della morte, perché con tutte queste paure la morte sarebbe un po' una liberazione. Oh, infatti Luca scrive che ansia oggi Manera, e Luca dice che vita di M, che vita di M il nostro Manera. Tu hai delle paure, cara Veronica? La paura di avere paura è la più bella di tutte, Leo. La più bella nel senso la più brutta, ma la più significativa. Io ho paura di avere paura. Ce la fa Marco d'Arezzo in 20 secondi a dirci quello che pensa? Marco, 18, 17, no, 16, che... 15. Secondo me 14. Era un altro che dava ragione a te, e quindi a un certo punto si è autocensurato dicendo dai, no. 11, 10, Marco, abbiamo... dobbiamo andare nel giornale della radio. Il tempo è proprio 5, 4, basta, niente. È tiranno, il tempo è tiranno. La seconda parte di Funamboli, parleremo di questa cosa di Pietro Maso e poi di altre tematiche. State con noi, Funamboli tornano tra poco. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Ti senti solo? Triste? Depresso? Hai i capelli deboli? Sottili? Sfibrati? Non riesci ad ottenere la tartaruga sulla pancia? Allora è giunto il momento di annegare tutti i dispiaceri nell'alcol dell'amaro Caporetto. Amaro Caporetto, l'amaro di chi, dopo aver perso tutte le battaglie, ha già da tempo perso anche la guerra. Amaro Caporetto, gustalo mentre ti arrendi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I Funamboli. Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro. Martin Luther King, niente popò di meno. Martin Luther King, che racconta come sia importante pulire le strade come metafora del tenere, immagino, per bene, da conto tutto ciò che è la cosa pubblica, poi, no? Certo. Tu tieni da conto la cosa pubblica? Ma certo, io la cosa che non capisco in Italia è l'idea, questa idea che siccome una cosa è pubblica non è di nessuno, invece dovrebbe essere il contrario, siccome è pubblica dovrebbe essere di tutti, e quindi dovrebbe Caspita, essere... ma stiamo facendo qui dell'educazione, pedagogia, Radio 24 per il pubblico, per la città. Ci hanno detto che sono pedagogica, allora Milano adesso si adegua e vuole diventare pedagogica. Perché la radio è pedagogica, la TV no, e non vorrei tornare su questa questione dell'intervista a Maso e vabbè. Niente, dai. Allora, cari ascoltatori, perché abbiamo letto questa parte legata a Martin Luther King? Perché adesso abbiamo un personaggio straordinario che è il nostro funambolo del giorno, che ci racconterà delle cose, interessanti. Nome? Rinaldo. Cognome? Bussolino. Età? 49 anni. Dipendente dell'azienda di servizi pubblici di Asti, ha appena vinto a Cattolica l'Enneturbiadi. Turbiadi, signori! L'Enneturbiadi, Rinaldo, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Che se tanto mi dà tanto, Enneturbiadi, Veronica, le Olimpiadi... Suppongo che siano le Olimpiadi dei Netturbini. Siamo perspicaci come persone, devo Hai dire. Hai visto? Cultura e perspicacia. Guarda, non sai i test che ci fanno prima di assumerci qui a Radio 24. Rinaldo, di che si tratta? Cosa sono le Enneturbiadi? Le netturbini sarebbero praticamente le Olimpiadi dei netturbini, ecco, dove si svolgono parecchie cose, ma le cose più importanti sono legate al lavoro. Ma è un concorso? Come funziona? Cioè, come passare una prova d'esame? No, allora lì le gare si svolgono su 3 giorni, c'è il netturbino che è quello più importante, è un percorso con dei birilli e un porter che è il mezzo di spazzamento che usiamo noi netturbini, sì, a pulire le città. E cosa bisogna fare? Bisogna essere veloci? Bisogna più che essere veloci, regolari, cioè non toccare i birilli, perché è come se uno toccasse le macchine. Ma che vuol dire superando con il mezzo di raccolta gincane e ostacoli? Ha raccolto rifiuti senza sbagliare un colpo? No, proprio un colpo no, però diciamo che sono andato meglio degli altri, anche se gli altri sono bravi comunque, perché sono tutti bravi. No, vediamo un po' quali sono le discipline, appunto, Rinaldo, questa è la gincana col mezzo, poi altre discipline per le Olimpiadi dei netturbini. Poi c'è quella del camion, quei camion grossi che vede per città, che a volte sono un po' ingombranti, però lo devono fare. E cosa bisogna fare con quel camion? Bisogna anche lì fare una gincana raccolta con i cassonetti, scendere e salire, usare tutte le precauzioni che si usano su strada, mettere i guanti, togliere i guanti quando si guida, tutte quelle cose lì, se non fatte, diventano penalità. Quindi lei è uno di quelli che poi di notte vanno a fare la pulizia strade anche nelle città, anche di notte? No, io l'ho fatto per un po' di tempo, adesso sono qualche anno che sono qui in un'isola ecologica ad Asti, dove poi la roba viene ancora riciclata. È vero che c'è la corsa con i sacchi, che per me da bambino significava un'altra cosa, quando ci si metteva i sacchi e si correva. C'è la corsa con i sacchi? Che disperazione. Sì, cioè? Si fa in spiaggia, anche lì c'è la corsa con i sacchi, perché ci sono molte gare da fare, c'è ballo, c'è freccetto. Ecco, no, questo aspetto non lo scavalcheremo con questa facilità, Rinaldo. Cosa vuol dire che c'è la prova di ballo caraibico? Forza! Sì, ballo caraibico, liscio, perché noi andiamo con la famiglia, ne approfittiamo anche per andare con la famiglia, quindi questo giustamente, sì, uno, ma cosa c'entra con il turbino il ballo perché caraibico? Uno mi sa che pulendo la strada va a passo di danza, no? No, perché hanno raggruppato un bel po' di cose, tipo le freccette, ping pong, poesia, io reciclo, ecco. Hanno collegato, no, anche poesia, però poesia. Purtroppo, Rinaldo, vogliamo sapere un piccolo componimento, lo vogliamo anche sentire. Beh, forse certo. Però io non sono lì sei andato male, era la parte carente, lì non la faccio proprio. Quindi per lei il lavoro è un allenamento per le Olimpiadi, possiamo dire, cioè lei lavora per essere pronto per le Olimpiadi nei turbini. Diciamo di sì. No, ma la corsa coi sacchi, cioè, è come si fa nelle saghe, cioè ci si mette nel sacco, oppure è corsa coi sacchi della spazzatura? Non ho capito questo. No, è come si fa nelle saghe, in spiaggia, un percorso da fare. E io pensavo, tipo, chi trasporta più sacchi da qui a lì, sacchi della spazzatura? No, la vera corsa nei sacchi saltando e non camminando. Ah, sì. Perfetto. Ma e invece la prova di scala 40 esattamente in cosa consiste? Consiste nelle varie coppie formate dai kral, cioè dagli enti. Capito, ma non c'entra niente. Nei turbini o giocavate a carte, ballavate, facevate le freccette? Bussolino, io non l'ho capita questa cosa. Si fa di tutto, perché le netturbiadi sono come le Olimpiadi, quindi si fa un po' di tutto, ci sono tante cose da fare. Cioè come in Italia... Vai, Leo. No, dicevo, come tante cose in Italia, resta il nome, ma poi il contenuto è completamente diverso. Sono andate lì un po' a divertirvi per qualche giorno, sostanzialmente. No, perché poi comunque diciamo che il pregio di tutto ciò è proprio la gara col camion e con il porter del netturbino. Cioè tutto gira lì. Tutto il resto degli sport fa sì che ci sia una sommatoria di punti per portare a casa anche la Supercoppa, perché c'è la Coppa del Kral e la Supercoppa. Quindi per Rinaldo, però per fare il netturbino sostanzialmente bisogna saper guidare bene. Questo sì, si evince da queste turbiadi. Evitare e saper fare più o meno no. bene il proprio mestiere. Tra l'altro, Rinaldo, per concludere, a me interesserebbe capire questo. Io quando vedo le città sporche, certo abito in una grande città, Milano, anche Veronica, Roma, e lì c'è un problema serio, immagino più serio che ad Asti, non lo so, ma lo immagino così. E quando vedo tutta questa sporcizia, robe buttate per strada, io ritengo che la colpa primaria sia dei cittadini. Cioè, se una città è sporca è perché i cittadini... non hanno una minima decenza nel tenere pulite le città. Che ne pensi tu che fai questo? Secondo me bisognerebbe, sì, prima di tutto educare bene i cittadini, perché è giusto quello che dici. Dopodiché bisogna vedere se c'è anche carenza di personale, se gli operatori bastano, questo non lo so. Comunque prima di tutto il cittadino. Lei è mai capitato di vedere qualcosa di molto strano buttato per strada? Beh, a me è capitato quando spazzavo che come giravo l'angolo mi buttavano i fazzolettini per terra. Cioè, capisci? Capisci? Cioè, uno allora... così, mica è colpa di non pagare le tasse se non c'è il servizio. No, cioè, Alessandro, uno così è da prendere a sberle. Uno così è da prendere a sberle. Rinaldo, prendilo a sberle per noi, uno così. Lo sapevo io. Alessandro, dategli il sedativo. Non possiamo, lo so che non potete. Dopo passi dalla parte del torto. No, ma vi sembra normale? Cioè, gente che... Già uno che butta il fazzoletto per terra. Ma perché per terra? Ma a casa tua lo butti per terra? Beh, magari sì, anche a casa, magari. probabilmente. Poi però c'è la moglie che prende la ramazza e lì può picchiarlo. Esatto, la moglie picchiare, pulire il fazzoletto o picchiarlo. Ma diciamo che nei posti dove sono carenti magari i servizi come cestini o che ci potrebbe anche stare, ma dove c'è però comunque i cestini, dove c'è tutti i servizi, lì è inciviltà. Ma sì. Poi se non c'è il cestino è pieno, e il che è sbagliato, e tienitelo in tasca sto fazzoletto, no? E troverai un cestino vuoto a casa tua, lo troverai vuoto a casa tua. Se l'ha svuotato. Se no chiami Rinaldo, che in un attimo, da vincitore delle netturbiadi, ti aiuta. Ma... Rinaldo, no, Rinaldo, io ti faccio una dedica prima di lasciarci. Attenzione. È un aforisma, chiamiamolo così, di Groucho Marx, in cui dice: papà, è arrivato l'uomo della spazzatura. No, digli che non ne vogliamo. Ne abbiamo già troppo. Rinaldo Bussolino, vincitore delle netturbiadi, è anche un lavoratore proprio ad Asti, dell'azienda di servizi pubblici di Asti. Grazie ovviamente per essere stato con noi. È il momento del traffico. Poi ancora Maso. L'argomento Maso, che scalda Maso. Di più. Pietro Maso, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i Funamboli. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Sta diventando un caso sadomaso. Vabbè, fermatevi qui, cari ascoltatori. Cara Veronica, come sai, Leonardo ne ha una per qualsiasi evenienza e me ne stava raccontando una sul senso civico. Che comunque è un luogo comune, ma in Svizzera c'è più senso civico che in Italia. Ci sta raccontando una disavventura, Veronica. No, non è vero, strano. Non è una grande disavventura. Ero in Svizzera con la mia station wagon, con il rosso fegato, che aveva dei problemi di combustione, faceva un po' di fumo nero. Per strada c'erano due signore, insomma, che avranno avuto 70-75 anni, che quando hanno visto il fumo nero che uscivo dal tubo di scappamento hanno cominciato a inseguirmi brandendo l'ombrello. Questo è senso civico. Vergognati, straniero, vieni a inquinare. Questi italiani che vengono a inquinare con macchine. Ovviamente macchina rubata con un furto di identità, anche quella, no? Certo. Ovviamente, era la Lamborghini. Era la famosa Lamborghini o la Porsche? La Porsche. Allora c'è Adriano da Verona. Adriano, buongiorno. Adriano, è svenuto? Sì. Eccoci. No, ci sono. Benissimo, dica. Bene, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì. Oggi con le paure di Manera veramente non sapevo più come tenere la macchina in strada. Mi è venuta paura. No, mi è passata completamente la paura. Bene, per quello si esorcizzano le paure. Ovviamente, guarda, è stata una cosa da altri tempi. Dopo volevo comunque dire una cosa a Milan, perché mi manca molto il duetto con Oscar Giannino, sì. Purtroppo. Dopo ci vediamo al bar, se vuole venire facciamo... Mi sa di sì. Riguardo Maso, io direi, è una cosa che almeno qui a Verona si dice, non è l'intervista del giornalista o quello che fa la televisione, ma quello è il lavoro del giornalismo, intervistare, andare in cerca della notizia. Il problema è uccidere due genitori e prendere 20 anni, è lì il problema. Sì. Cioè, è poco. Un fatto così grave, con una pena che non può avere una sentenza del genere, ecco, sì. Quello è il giornalista fa il suo mestiere. No, ma io anche perché dico, e però adesso lo chiediamo a un ospite, a un amico che ci è venuto a trovare, ma è la prima volta che parla in 26 anni, almeno questo, Veronica, sarà una notizia, che è la prima volta che rilascio un'intervista, cioè sì. Così compiuta, ha scritto anche un libro, però... no. Ha scritto un libro, ha fatto l'intervista sentire per la chi... sua voce, sentire... Ah, perché tu... Tu eri in pensiero, fremevi per sentire la voce ma di Masi. Ma non è voyeurismo, è sentire, è guardare è in solo, faccia il è crimine. Solo ed esclusivamente voyeurismo. Ma non beh, però io, insomma, questa intervista si fa perché si pensa di avere grandi ascolti, quindi noi effettivamente, se non condividiamo questa logica, facciamo fare bassi ascolti a questa trasmissione, probabilmente in futuro non faranno più trasmissioni di questo tipo. No, ma tu hai ragione, Leo. Infatti moltissimi ascoltatori, cioè moltissime delle persone che hanno commentato, per esempio sulla pagina in cui chiedevano un feedback su questo, hanno detto boicottiamo la trasmissione, non guardiamola in maniera tale che si rendano conto che questa è un'informazione che non ci interessa. Io per esempio non la guarderò, ma non lo però so. Tu non sei coerente, perché tu invece, essendo uno che sostiene che tutti devono poter fare tutto, sì, bisogna certo. Allora la guardi, ma o no, però lascia acceso. Ma no, è appunto perché teorizzo il massimo della libertà, c'è anche la mia libertà di non vederla. Comunque vogliamo chiedere tutto ciò a Federico Novella, conduttore del TG4, grande buongiorno, amico. Ciao Federico, ciao, buongiorno. Ciao, ciao Veronica, Fede! Ciao Leonardo. Dal primo giorno che ti voleva in onda. Ciao Fede! Se dovete regolare qualcosa in privato, fatelo pure. Poi ci vediamo al bar dopo il Giannino, arriviamo noi. Vabbè. Esatto. Dopo che loro vanno a farsi il duetto con Giannino, io e te ci andiamo a fare però un duetto da un'altra parte. Vorrei capire questa cosa. Privé, nel privé. Esatto, noi stiamo nel privé, facciamo i fighi nel privé. Allora, Federico Novella, sì. Si può intervistare Pietro Maso? Sì, si può, certo. Ma si può, certo che si può. Anzi, a volte si deve intervistare Pietro Maso, e dire che non si può intervistare Pietro Maso, secondo me, non solo è sbagliato, ma è una censura sovietica. Sovietica. Beh, lei dato della sovietica, questo non lo reputerà come un grande insulto, Veronica. Qui da Stalingrad noi contenti. Veronica, puoi rimetterti col bacco in testa adesso. Fatto, ce l'ho. No, ma detto che si può, ovviamente qui si discute dell'opportunità di farlo, di dare voce a una persona che ha ucciso i genitori insieme ad altre due persone. Ma il punto è questo, dare voce. Intervistare, noi siamo abituati alle interviste in ginocchio, sdraiate, no? Intervistare non vuol dire giustificare, vuol dire capire le cose, capire Bravo. Il mondo. Se no uno non avrebbe intervistato Osama Bin Laden, e invece Bravo. È lo scoop Bravo. Della vita adesso. Poi sì, però ha una condizione, dipende come la fai. Ecco, questo è il punto, perché tu che sei un ragazzo questo sveglio, sai bene però, che la televisione, lui è un ragazzo sveglio, tu no, per favore. Ma io l'ho detto all'inizio che dipende dal modo, sì. Non litigate, dai. Lo Vabbè. Sai, ci prende così, purtroppo, Sandra e Raimondo. Però voglio dire, nel momento in cui lo fai con un senso, cercando di raccontare qualcosa in più, è un discorso. Nel momento in cui viene fatto in una maniera prona agli ascolti, lei ha già deciso che io ne ho visto il trailer e no, ma io infatti ma trailer, mi rifaccio ma voglio dire no. Probabilmente c'è l'impressione che si possano creare anche dei modelli, come dire, uno che ha ucciso i genitori e poi va in televisione, in qualche modo diventa famoso, può essere diseducativo, ammesso ragazzi, che la televisione debba avere una funzione educativa, sì, cosa che io non penso peraltro. Ma ognuno giudicherà l'intervista, prima sarebbe il caso di vederla, sì, certo. E ognuno la giudicherà, e poi vi dico la verità, se proprio non vi piace Telecomando, una volta aveva 7 canali, adesso ne ha 700, cambiate canale. Ma questo è il presupposto di partenza, ma che uno cambi canale, ok, però uno si domanda in assoluto se è giusto che una figura così controversa non deve avere voce. Ti faccio una domanda, posso, Veronica? Sì. Se ti scoprisse che Hitler è vivo e tu avessi la possibilità di intervistarlo, tu lo intervisti o no? Ma certo. Certo che lo intervisto. Il problema allora è come lo intervisto. Ma è questo, ribadisco. Questo stiamo dicendo. No, però, perché noi portiamo... Allora, abbiamo un unico dato e lo prendiamo. La gigantografia dei genitori di Pietro Maso dietro alla sua faccia. Ma ho capito, con la lacrima, ma ha ucciso i genitori? Vorrei far vedere la foto, no? Non stai veramente rispondendo così. Con la gigantografia dietro in maniera scenografica, facendo una cosa che sembra un ibrido tra C'è posta per te, storie di famiglia lì appunto... e ci metti davanti lui, facendo una mercificazione di quello che è stato un efferato omicidio, uno dei più efferati delitti della cronaca italiana degli ultimi 30 anni. Niente, beh, ho scoperto prima che è moralista. Prima la devi vedere, cioè, prima la devi vedere. No, non pensavo, invece l'ho scoperta moralista. L'importante comunque anche dare delle alternative. Bacco. Secondo me è importante avere alternative, cioè su un canale fare intervista a Pietro Maso, sull'altro a Totorina, per dire. Bravo, esatto. La par condicio. Così copri tutto. Del resto, quella Rina l'abbiamo vista. Federico, che dici tu dell'intervista che ha fatto Vespa a Rina? Ti è piaciuta? L'hai trovata ficcante? Hai trovato, abbiamo avuto delle sfumature diverse sulla figura di Rina? Qui parli della Rai, quindi puoi dire quello che vuoi. Io non è che mi metto a giudicare Bruno Vespa. Però l'intervista intanto me la sono vista, quella lì. A me non è piaciuta, ma in quel caso io difesi comunque Vespa. Ognuno giudica l'intervista come vuole, ma il fatto di intervistare i cattivi, quelli che con le mani insanguinate, sono sempre stati intervistati da tutti. Voi forse citavate, prima non mi ricordo cosa, però Saddam Hussein non dobbiamo intervistarlo, l'hanno intervistato Gheddafi, ma certo. Ricordo Enzo Biagi. Ma tra l'altro svelerò una cosa agli ascoltatori, ovviamente questa è la radio rispetto a Bruno Vespa eccetera, ma anch'io prima di Bruno Vespa chiamai l'avvocato di Rina, l'avvocato del figlio, per dire: ah, esce il libro, vuol venire a Radio 24, lo intervisto volentieri. Ma sei un po' uno sciacallo allora. Non sono uno sciacallo, ma voglio dire, si fa giornalismo nei percorsi delle persone e prima che qualcuno glielo tirasse fuori dopo, perché ha detto: vedrai che però adesso ha scelto Bruno Vespa, chiama. Chissà perché questi milioni di ascoltatori. Io resto sempre dell'idea che non deve educare la TV, devono educare la famiglia, i genitori. Ecco, poi diciamo, facciamola vedere con i genitori, magari l'intervista a Pietro Maso al limite, nel senso che sono altre. Ma perché Pietro Maso può scrivere un libro e non può andare in TV? Perché la gente che lo critica i libri non li legge, questa è la mia opinione. Voglio dire, questo certo è possibile. Non solo fanno interviste, ma scrivono la storia. Prendi le Brigate Rosse. La storia delle Brigate Rosse si studia su libri scritti dai brigatisti, che vanno a fare convegni, firmano autografi, nessuno dice niente. Ci sono polemiche, ma la differenza è che se io vado a comprare un libro, però vado con la determinazione di comprarmi il libro di Pietro Maso e di sapere quello che dice. Il discorso che qui si fa è che molto spesso lo sapete benissimo. La televisione in parte viene subita passivamente. Per cui criticare le Brigate Rosse devi prima reggere il libro, devi fare uno sforzo. Ci vuole tempo, fatica, faccio un esempio. È più facile andare su Facebook a criticare Costanzo. Ma visto che tu hai citato i libri, Federico, faccio l'esempio di uno dei più straordinari libri che abbia mai letto, L'avversario di Emmanuel Carrer, che racconta una storia vera, la storia del francese, se non ricordo, Romain, credo che si chiami, è in carcere, che ha ucciso tutta la famiglia dopo una vita di menzogne, dicendo che faceva cose che in realtà non faceva, lavori che non facevano. Carrer ha scritto un libro straordinario su di lui. Lui è in carcere, l'anno scorso è uscita la notizia che poteva uscire per permessi ma non lo intervisti se esce anche Truman Capote ha scritto A sangue freddo e non lo intervisti se esce ti sembrano delle situazioni analoghe rispetto a te dà fastidio che sia Costanzo per mi la, sembra per no come perché è se Costanzo. No, vogliamo fare un discorso, se vogliamo fare un discorso generale esulando completamente dal contesto è una faccenda, se altrimenti ci atteniamo alla figura di Maso, a come sta mercificando, tentando di lucrare dal libro al servizio fotografico, all'ospitata da Costanzo, su quello che è un personaggio che lui sta tentando di far diventare pubblico, giocando tra il Redento e il Figo, è un'altra cosa. Poi mi potete dire che sono moralista, ma se per non essere moralista devo sostenere l'insostenibile e mi tengo il moralismo. L'intervista di Maso, che stiamo condannando così a prescindere, avrà sicuramente dei lati che non piaceranno, avrà lo sfondo ma è che ovvio. Non ti piace, perché la gente si aspetta solo Maso, assassino, confessa, disgraziato, una musica che non ti piace, ma se servirà a capire che cos'è davvero il male e a ricordarci qual è la parte sbagliata e la parte giusta e farci sentire anche un po' migliori, perché noi ci troviamo nella parte giusta, quell'intervista sta da fare. Comunque vedremo che succede. E poi, visto che il carcere non riesce più a riabilitare le persone, diamo questa funzione. Non leggerò il messaggio di chi scrive: intervistiamo ancora D'Alema, quindi si può intervistare chiunque. Come mai non lo hai letto? No, è un messaggio che non leggerò perché non si dicono queste cose. Aspetta che adesso ho il col bacco che mi si sta staccando, fermi tutti. Esatto, falce e martello. Siamo De Luca sempre questo, quindi voglio dire. Federico Novella, noi ti ringraziamo, conduttore del TG4. Ciao, quando vuoi, un abbraccio. Fede, la prossima volta devi essere d'accordo con me, qualunque sia la domanda. Assolutamente, come sempre nella vita, però. Perfetto, come ti ringrazio di aver fatto questa gentilezza ad Alessandro che era in difficoltà. Sei stato carino come fanno gli amici. No, la verità è che non sapevamo come la pensasse Federico Novella, abbiamo scoperto in onda e vedi la suspense. Guarda come è contento. No, uno tutto. Dei, ma è stato un massacro, figurati Veronica, vi stanno massacrando, ma anche Leonardo la pensa un po' come me. Io la penso abbastanza massacrate come te. Un po' Leonardo. La cosa che però mi piace di Veronica, che apprezzo di Veronica, è che pensa ancora di poter cambiare il sistema. Questa è una cosa che apprezzo molto, insomma. È bello, è giovane. Non vede il mondo come un destino cinico e baro immutabile, ma dice invece allora proviamo a cambiarlo in meglio. Questo secondo me è giovane, ma 3-4 anni e cambierà adesso. Basta, già subito. 3-4 anni cambierà, poi la buttiamo nel secchione, finito. Io vorrei il cinismo uno se lo riserva per tante cose, per altre prova un pochino, se non altro a punto di vista sociale. Mi tengo pessimismo antropologico sulla condizione dell'uomo, ma almeno culturalmente. Dobbiamo andare alla borsa adesso, non farmi passare come quello che sta per Pietro con Pietro Maso e con quello che ha fatto. Anzi fare un appello a Pietro Maso, se ti rilascia un'intervista a te proprio per scriverne un'intervista sulla verità, la vorresti fare? Beh, sì, eccolo, certo. Visto il come silenzio? No, il giorno dopo Maurizio Costanzo non ha molto senso, però l'attimo sì. Di situazione. Ma secondo me l'avresti voluta tutti fare ugualmente. Una settimana prima, sì, sicuramente, perché no? Comunque andiamo al traffico, andiamo alla borsa, va. I funamboli. Io un giorno mi sono arrabbiato moltissimo con una persona che mi era vicino, che davanti a casa mia ha buttato un mozzicone a terra, e io l'ho rimproverato: ma perché butti il mozzicone a terra? Dice: ma dove posso metterlo? Guardi, io un'idea ce l'avrei, se lo infili nel culo acceso. Grande Feltri, grande, io lo dico sempre a Mauro Meazza che fuma, ma io dove lo mangiatelo, ingoiatelo il mozzicone, piuttosto che buttarlo per terra. Ma cosa dici? Ma adesso tiri in mezzo anche i colleghi. Ma io sapessi cosa c'è davanti a casa mia, di tutto veramente. Ma i mozziconi per terra, tra l'altro informo che c'è una multa da credo 50 euro, mai applicata, e la gente butta i mozziconi. Ma hai visto come si infervora su questa cosa? Cioè quando lo colpiscono nel vivo, cioè casa sua, lui casa diventa casa vostra, diventa. Ma lui è libertino finché è, poi dopo quando ci sono le cose su cui deve diventare rigorista, sì, diventa giustizialista davanti a casa sua, a casa vostra, la casa pubblica, i marciapiedi di tutti, le città. Senti che dice adesso, c'ha l'attimo svizzero, poi viene posseduto senza motivo da alcune cose, come se l'avesse punto la mosca zezè. Vedi dice svizzero come se fosse bravi gli svizzeri, cioè Guidobaldo. Bravo. Ma abbiamo inventato una rubrica che si chiama Defurbizziamoci. Va bene la sigla, quello che vuoi, ma perché l'abbiamo inventata? C'è una multa, ti ricordo, c'è una multa mai applicata, non ho mai visto nessuno che ha preso una multa per il mozzicone buttato, arriva fino credo a 500 euro addirittura. Comunque io voglio dirti che ci fu una puntata ai tempi, quando eri a 24 mattino, in cui ero ospite, ne parlammo, io ti dissi che un'idea era spegnerle sulla tua lingua, che fu molto ripresa, ti ricordi? Feltri, viva Feltri! Che metti la lingua, dici non so dove spegnere la sigaretta, dammi un po', tieni, ah grazie. Comunque ricordiamo a tutti banalmente che ci sono i posacenere portatili, se lo prende, lo tiene in tasca. E le multe ci sono. Quel bello oggettino che sta in spiaggia, lo spegni, lo metti via e poi lo svuoti. Allora, Veronica tutta la vita brava, scrive uno, non so perché, però tu non te ne capaciti, ci tenevo a dirlo, grazie amico mio che mi dai un po' di conforto. Cari amici, questo è il momento in cui sapete, nelle nostre rubriche, oltre al Defurbizziamoci, l'ascoltatore all'estero, abbiamo lanciato questa nuova, che è quella dei lavori strani, lavori che ci colpiscono. Abbiamo anche una sigla, vediamo la sigla, siamo ansiosi di sentirla. Eccola, lavoratori. Chi non lavora non va l'amore. Questa non è male di sigla. Chi non lavora non fa l'amore, fa invece chi lavora fa l'amore, no, com'era? Chi non lavora fa l'amore con le mogli di quelli che lavorano. Era così, giusto? Sto facendo om per non cantare. Esatto, hai visto? Prezza. Om. Abbiamo vietato a Veronica di cantare per il ritardo e perché non siamo al karaoke. Dicono che canto sempre. Fate una petizione, ascoltatori. Chiedete per favore che io possa ricantare di nuovo. Ma che no, è una censura ingiusta. Facciamo tipo il venerdì, ti facciamo il momento karaoke di Veronica. Va bene, gli ultimi due minuti di trasmissione nella trasmissione due di denari. Ti va bene? Allora, cioè, a Mauro Meazza già gli hai detto che spegne le sigarette random e secondo me è partita la querela, te lo dico. Sì, no. Adesso anche il karaoke nella... Dai, sì, allora, sì, buono. Abbiamo i lavori strani, dovete scriverci a funamboli@radio24.it oppure al 349-238-6666 per dirci che lavoro strano fate. Guardate che oggi abbiamo chiamato Fabrizio che ci ha contattato. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, buongiorno. Sentite che voce squillante. Fabrizio. Complimenti per la trasmissione. Bello. Fabrizio, appena ho letto il tuo messaggio con scritto che lavoro facevi, non mi sono più data pace. Diccelo. Ho dato il tormento alla redazione. Diccelo, Fabrizio, che fai? Mi definisco il dietologo delle vacche da latte, dei bovini. Il dietologo delle vacche. Che spettacolo. Il Carlo Cracco della situazione. Il Carlo Cracco delle mucche. Cioè? Praticamente vado, il mio lavoro è andare nelle aziende, nelle aziende dei clienti e cercare di combinare gli alimenti per creare il menu migliore per le vacche. Ma per farle stare meglio. Sei tu che ti proponi o ti chiamano loro in modo inopinato? Sono sia io che mi propongo, ma sia loro che mi chiamano. Bello, bello. Ma perché è importante l'alimentazione per una vacca? Faccelo capire. Beh, è fondamentale, sì, perché comunque è molto importante l'alimentazione, molto più controllata l'alimentazione delle vacche che per dirti anche delle persone. Ma gli animali devono produrre nel benessere, non devono andare in stress, quindi devono avere dei livelli di energia, fare latte, di proteine, esatto, però devono mantenere la linea, no? Non devono ingrassare, non devono dimagrire, devono avere uno stato corporeo perfetto. Ma infatti poi il prezzo della carne, quando invece viene venduta, cucinata, varia anche in base a questo, al lavoro che si è fatto prima sul bovino. È importante l'alimentazione, è uno dei fattori fondamentali insieme che contribuiscono al benessere dell'animale, che comunque è una cosa molto molto importante. Ne becchi tante di mucche sregolate con la zampa della Nutella, tira che giù. Fanno una vita bucoschiana, bevono. Bevono troppo. Gli allevatori a rubare la Nutella. Quella vecchia alcolizzata tante. Della mucca. Ma e quali sono le tipologie di carne più pregiate tra i bovini? Io mi occupo di latte, non di latte. Carne. Okay. Ma perché? Facci capire, c'è una dieta sbagliata per una mucca che cosa provoca nel latte? Può provocare degli scompensi a livello della qualità del latte, ma poi anche a livello dell'animale. La dieta non è bilanciata, l'animale non sta bene, non produce come deve produrre e si creano dei fattori. Ma ne altera la qualità, la quantità? La qualità relativa, ma poco, però che produce meno. Altro si ripercuote sullo stato di benessere dell'animale. E quindi tu che dieta proponi a questa mucca per fare del buon latte? La dieta del piatto unico, no, bene, le diete la vacca ha praticamente un piatto unico chiamato Unifeed e noi dobbiamo cercare di combinare i foraggi che hanno gli allevatori in azienda con una serie di con i cereali che acquistano, che hanno loro, per cercare di raggiungere per raggiungere un livello energetico tale da superare i fabbisogni, perché un animale che deve crescere al vitello ha determinati fabbisogni di proteine e meno determinati di energia, invece quando è in gravida, che è in lattazione, magari ne ha degli altri. No, perché io mi sono sempre chiesto una cosa: al supermercato vedo questo latte di alta qualità, ma esiste davvero? Io ho sempre pensato che fosse una fregatura, esiste. Un esperto riesce a vedere le differenze. Esiste, c'è anche il sommelier del latte, inventeremo un lavoro per il sommelier del latte, dovremmo fare questo. Ecco, e questo è per la prossima puntata. Beh, ragazzi, perché prossima puntata mi proporrò già scritto anche come il sommelier del latte. Trovatene uno e scriveteci a funamboli@radio24.it perché se troviamo un sommelier del di latte. Prima viene annusato, l'aroma, lo fai, no, lo muovi nel bicchiere. Caro Fabrizio, ti ringraziamo tantissimo. Grazie, scriveteci, lavoratori strani, c'è chi ci ha scritto faccio i muretti a secco, non li fa più nessuno, ma c'è anche chi ci scrive scrive: attenzione, mio marito spegne i mozziconi in strada e li mette in tasca, e quando stiro trovo dei bozzi enormi nelle giacche. Lo so. Ma non è lui, è l'amante che glieli mette in tasca, diciamoglielo. Vabbè, cara ascoltatrice, Manera, ovviamente, che dobbiamo fare questo qua. Scusami, però ti dico che c'è un ascoltatore che scrive: per il benessere nelle stalle vendo dei mega aspiratori che sedano l'ambiente. Molto interessante. Cioè, come lavoro si propone? Credo di sì, credo sia la sua attività. C'è anche un ascoltatore che mi scrive: caro Alino, tu sei bravo, già lo sapevo, ma bisogna dire che con Manera e soprattutto Veronica c'è un valore aggiunto alla trasmissione. Peccato che li stiamo per cacciare 2 giorni, 3 giorni allora... ancora, e poi dopo torneremo. E ringraziamo perché stiamo andando via, domani è l'ultimo giorno, poi io e Leonardo ci congediamo. Leo, hai fatto la borsa, abbiamo preso tutto, sì? Sì, sì, io da lunedì cambio vita completamente. Allora, prendete informazioni sul traffico. Andiamo a raggiungere in Thailandia il signore di ieri. No, lascia stare. Prendiamo informazioni sul traffico e così capite dove vi dovete dirigere. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta i Funamboli. Cara Veronica, con grande con grande piacere è tornato a trovarci. L'emozione no, è tanta. L'emozione. È tornato a trovarci Peter da Parpo. Buongiorno a tutti, buongiorno signora Veronica. Salve Peter, salve. Io sono venuto qui perché nel nostro piccolo paese si è verificato un problema, c'è stato un episodio di bullismo. A Parpo, un episodio di bullismo praticamente, perché è arrivata la maestra in classe e un alunno si è alzato in piedi e ha detto: io ho studiato tutto, che insomma di questi tempi è bullismo, no? Far questo vedere che uno ha studiato. E poi si è alzato in piedi quando entrava la maestra per vantarsi, è un tipo di educazione che non si usa più, quindi è bullismo. Certo, sì. E perciò noi... No, è bullismo, perché nessuno più lo fa, vuoi farti vedere che sei meglio degli altri. Allora, siccome sono cose che non si usano più, abbiamo messo a Parpo in piedi il nuovo galateo moderno secondo le regole attuali. Io adesso vi farò alcune domande e mi dovete dire qual è la risposta giusta, va bene? Allora, secondo le regole del nuovo galateo, invitati a cena a casa di amici, come si dimostra il proprio apprezzamento per una vivanda? Si fanno complimenti alla padrona di casa anche di natura sessuale, si emettono grugniti, si mangia con voracità isolandosi dalla conversazione. Grugniti? Non c'è una quarta. No. Andiamo alla seconda. Quando si conversa con altre persone, è normale, parlando con altri, utilizzare molte parole straniere per darsi un tono, alzare la voce per farsi sentire da tutti, intercalare con alcune parolacce di uso comune. La terza, intercalare con parolacce. Il test così non funziona. Quale dei seguenti comportamenti rispetta le regole della buona educazione durante un corteo funebre? Passare da un amico all'altro per fare 2 chiacchiere. Consolare a lungo la vedova, ma solo se è molto carina. Sì. Approfittare dell'occasione per avere il parere di un conoscente medico. La minestra si beve, bevendola direttamente dal piatto, versandola nel bicchiere, portando il piatto in bagno e bevendo di nascosto. La terza. Siamo tutti la terza, anche dalla regia mi fanno la terza qui. Con risucchio. Quale dei seguenti comportamenti si addice a un gentiluomo nel caso in cui a una signora cadano delle monete? Buttare per terra alcune monete per solidarietà. Coprire le monete con un piede in attesa che la signora si allontani. No. Si fa finta di niente, si attende che la signora si chini a raccogliere le monete per guardarle dentro la scollatura. Questo magari non... La terza. Le ultime... Dopo aver accompagnato una festa una ragazza, qual è il comportamento corretto per il suo cavaliere? Se lei non ci sta, tornare a casa con una nuova compagna, sparire all'improvviso se si incontra una nuova fiamma, fare complimenti eccessivi a lei ma anche alle amiche cercando di concretizzare qualcosa. Milan? La terza? Giusto, concretizziamo. No, io me la prenderei con la terza, qui la trovo... Però, per carità... Come deve essere un complimento nei confronti di una signora? Sì. A doppio senso. Riferito al solo aspetto esteriore, accompagnato da un fischio. A doppio senso. Veronica, la terza col fischio. Ultime due. Incontrando in un locale pubblico una persona con la quale in passato si è avuto una relazione sentimentale, come è più opportuno comportarsi? Avvinghiarsi a un nuovo partner per ingelosirla? Raccontare agli amici tutti i dettagli sessuali della storia passata oppure scappare dal locale? La seconda. Ma dai ragazzi! E l'ultima, in che modo è opportuno rivolgersi al proprio fidanzato in pubblico? chiamandolo per cognome preceduto dal titolo di studio, per esempio Geometra Milan. Chiamandolo solo con il titolo di studio, questo è Geometra, oppure utilizzando ogni volta il nome di un animale diverso. La terza. Sposo la terza, questa è mia. Allora, queste sono le regole del nuovo Galateo moderno. Potete venire a ritirare il libro da noi a Parpo. Grazie a Parpo per l'ospitalità. Grazie, Peter. Grazie, vedi, Peter, di trovare altri motivi per passare questo orario al mattino. Ma questo era un test importante. Io lo farei anche sull'Espresso, sai, quei test di politica ogni tanto. Guarda che c'è Lucio da Treviso, lo vogliamo premiare perché lì pazientemente da tempo. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Che ci vuole dire? Allora, grazie a tutti per la compagnia che mi date tutti i giorni mentre lavoro, intanto. Importante. No, per via del senso civico. Grazie. Siamo abituati a vedere in Italia politiche città quando arrivano i G8, quando arrivano riunioni importanti a Napoli, a Roma, a Milano, sì, in 100 zone anche limitate. Ma perché non venite nel Veneto che c'è un G8 tutti i giorni? O in Friuli, le aiole sembrano mostre di fiori. Mai vedo questo di chi tiene pulito. Con senso civico. Un mio amico romano è venuto su, no, per fare delle ferie, ha detto: Madonna mia, che pulito è qua, fa lui. E ho detto: io abbiamo 10 motoscope in un paesetto che ha 5.000 abitanti. Madonna, lui, per quello che è pulito, ho detto io. No, di motoscope abbiamo 5.000, perché 5.000 non buttano le immondizie a terra. Lucio, ma lei non vuole entrare nella giunta Raggi qui a Roma? Ma no, ma il problema la giunta Raggi, poveretta. Un assessore serve sempre, perché lei non viene qui? No, ma guardi che prima Manera ha detto giustamente, c'è quel discorso in Svizzera di qua e di là, ma il senso civico lo facciamo mantenere ai nostri vicini. Brandivano gli ombrelli, a casa sua. Brandivano gli ombrelli, caro Lucio. Però guarda, abbiamo un minuto, cara Veronica, hai le palette da 0 a 10? Sì. Tu, Leonardo, facciamo. Hai le palette da 0 a 10. Votiamo. Il grande Dejan Cetnikovic con Radio Rock è andato a pizzicare Luca Lotti che canta. Oli appena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori. Non sta succedendo. Ministro allo sport. Gli allenamenti, tanta è la classe dei due contendenti. Dai, però. Oli rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione. Ma io gli do un 7.5 per l'intonazione. Allora tu non mi fai cantare e poi dobbiamo sentire Lotti che canta così? Adesso la canto io. Bravo, bravo, ma per me no. Anche per me no. Bravo, no. Come, bravo è bravo, come direbbe un amico. Oggi abbiamo Peter, ma un altro amico direbbe bravo. Bravo. Tre voti no. Quindi bocciato Luca Lotti. Bocciatissimo proprio. Oltretutto vorrei capire, ma perché i netturbini fanno la prova di canto e il ministro no? Non lo so. Dobbiamo salutare tutti e saluto Alessandro Chiappini, il grande, a nome di tutti i funamboli. A domani. Butti il mozzicone a terra. Dice, ma dove posso metterlo? Guardi, io un'idea ce l'avrei. Se lo infili nel culo acceso.